adesso tutti concentrati, mettetevi comodi, è cominciato, l'attesa è finita. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Per il cross non è arrivato Parolo, adesso Felipe Anderson, splendido gol di Felipe Anderson e la Lazio è in vantaggio 1-0, ha pizzicato l'angolino Felipe Anderson, uno splendido gol. Ora Felipe Anderson, Klose, la terza è buona per il 2-0 della Lazio. Felipe Anderson, deviazione, Parolo, 3-0 Lazio. Si coordina per il cross Pasquale, palla in mezzo verso Ilicic, attenzione, sarà a rete, Fiorentina in vantaggio. Martina Caturi se ne va e crossa proprio Fanderud verso Glick, che colpisce di testa per la sesta volta in campionato Kamil Glick, 1-0 per il Torino. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Giorgio De Luca, nostro autore, Filippo Auregi oggi in regia, Daniele Bonamici in redazione. Quanto mi manca Pierluigi Pardo quando non mi viene a trovare, mamma mia. Verrò. Sì. Non ti crede più nessuno. Giovedì. Sì, sono triste. No, non sono triste per niente, perché se la Juventus facesse un altro campionato come Totti voleva, avremmo Roma 48, Napoli 45, Lazio 43, Fiorentina 42, Sampdoria 39, Genoa Torino 36, poi Inter 35, Milan 34 e andiamo con quelle di bassa classifica. Milan e Inter sono in fondo di bassa classifica, no Pier? Sì, beh, insomma, le provinciali. Scherziamo, scherziamo sull'Inter, non sul Milan, perché l'Inter poi ne parliamo, secondo me, nonostante quello che la sconfitta di ieri, a margine di crescita sta crescendo. Anche secondo me l'Inter, secondo me, può arrivare in Europa League attraverso il campionato. Sì, e comunque aspettando l'ex sfida scudetto di stanotte, derubricata partita d'alta classifica al treno aspetta 12 ore, ma che ti costa? Aspetta 12 ore. Fammelo dire. Derubricata sfida d'alta classifica tra la prima e la seconda distante 9 punti, c'è un cuscino di piume sotto la Juventus, poi non ci sarà Pirlo che è rotto, Pogba è stato convocato ma probabilmente non giocherà, Vidal è mezzo rotto, l'unico sano è Marchisio di quel centrocampo, lo sta tenendo in piedi quasi da solo. Però alla fine ieri, Pierre, il treno per Juma lo hanno preso Lazio e Fiorentina, lo hanno perso Napoli e Inter, confermando l'incertezza di tutto quanto si muove sotto la Juventus, che è in fondo divertente. È molto divertente, anche perché vive di fasi di oscillazioni molto forti, no? Fra un periodo e l'altro, fra una giornata e l'altra, insomma. Lazio e Fiorentina per me, insomma, nel film che mi sono fatto, che mi ero fatto fino a ieri, erano nettamente le migliori del gruppo delle inseguitrici. Ieri l'hanno confermato e quindi a questo punto potrebbero riaprire anche il discorso per la Champions League. In ogni caso mi sembrano sicure di conquistare almeno l'Europa League. E poi rimane un posto, il sesto, sul quale secondo me sarà ancora bagarre fra l'Inter, il Torino, certo, il Milan, anche se mi sembra un po' più in difficoltà, le genovesi e lo stesso Palermo, anche se mi sembra si sia un po' sgonfiato. Insomma, mi sembra bello, mi sembra tutto affascinante. Ieri a San Siro si è vista una partita, io l'ho vista un po' di sfuggita, dico la verità, insomma, perché ero a Torino, però da quello che ho capito, da quello che ho rivisto anche dopo, chiaro che l'Inter poteva anche fare risultato, però si è vista la differenza fra una squadra che ha una sua fisionomia, un allenatore che è in controllo assoluto, che può fare turnover, che toglie i titolari, sì, che addirittura chiude in 9 per un suo errore e riesce comunque a portarla a casa, e l'Inter che in questo momento è un insieme di energie interessanti, potenzialmente di buon livello, ma ancora non completamente amalgamate. Sì, poi mi devono spiegare comunque. Poi parliamo anche di un ipotetico titolo di allenatore dell'anno. So che stasera ne avrai uno, potenziale a tiki-taka, Gian Piero Ventura. Ventura, io ho le mie spie. però allenatore dell'anno Ventura, Iachini, Pioli, Montella, Allegri, nomination anche per i due di Genova, Mihajlovic, sì, cioè, Gasperini, Sarri. Ditecelo voi, 800 24 00 24 è il numero verde. Certo è che anche ieri mi ha sorpreso al capitolo allenatori Mancini che tiene fuori Shaqiri, Montella che non fa giocare al primo minuto Salah, Benitez che fa sedere in panchina Gabbiadini e poi fa la sceneggiata napoletana, poi ne parliamo bene, ma intanto uno stralcio. Non mi è piaciuto il primo tempo nostro. Sì, mi è piaciuto il secondo fino a che abbiamo fatto l'errore e dopo abbiamo avuto il controllo, però non è stato sufficiente con qualche episodio che anche non mi è piaciuto. Episodio? No, credo che l'hanno visto tutti. Per farlo di mano di Moretti nel secondo tempo? No, sono stanco di parlare di queste cose, non dico nulla. Questa è la frase più lunga detta da Benitez in una surreale comparsata ai microfoni di Rai e di Mediaset. Poi da una parte Mauro, dall'altra Ciccio Graziani, gli hanno fatto pelo contro pelo, lui ha risposto, insomma tutte queste cose di cui parleremo anche insieme se volete, 800 24 00 24. Altra pagliacciata, Manenti. Di lasciare il Parma non ci penso se non dopo aver risolto il problema. Presenterà in procura un piano per saldare i debiti? Noi abbiamo tre opportunità, abbiamo vendere, portare i libri in tribunale o presentare il piano. Questa settimana decidiamo un attimino. Quindi potreste vendere il Parma? Sì. A breve? Se la cosa è fattibile, è anche brevissimo. E chi lo comprerebbe? Una struttura sicuramente molto importante. E lei sarebbe fuori dal gioco? No. Sì, in Lizza ci sono Gaucci e Moggi. Pardo. Ma io che ti devo dire? Ma che vuoi dire? Cosa vuoi dire? Sono in difficoltà. Nel senso cioè, oggi, che... Malagò ha detto fuori responsabili, ma tutto il mondo dello sport italiano, CONI compreso, deve chiamarsi al banco degli imputati. No, assolutamente. Assolutamente, e è vero anche che quello che si diceva ieri con Lucarelli, cioè che il calcio da un lato attrae una serie di personaggi in cerca d'autore, in cerca di visibilità, sì, che altri mondi chiaramente non attraggono, nel senso che un'industria siderurgica diciamo non ti manda in televisione ogni 10 minuti, o un'industria di tubi o di altri materiali meno diciamo divertenti mediaticamente, e questo fa sì che ci siano dei pretendenti spesso improbabili alle società di calcio, con pochissima solidità economica e pochissima credibilità, e il sistema non ha niente, non ha nessun anticorpo per riuscire a bloccare, no? Per riuscire, il discorso che faceva Lucarelli ieri insomma è interessante, cioè comunque alla fine pare che lui si sia comprato questa macchina e gli hanno chiesto 800 documenti, come succede a tutti noi se per qualsiasi atto, forse dovessimo anche comprarci una macchina o un box, e invece è incredibile che ci sia la possibilità di vendere o comprare società senza le minime garanzie, certo, senza la minima patrimonialità. Certo. Si dice patrimonialità. Bah. Devo chiedere a Barisoni o a Massimo Berinato. Mentre c'è il traffico mi informo. Va bene? Siamo contenti, sono contento, ma per la personalità con cui gioca la squadra su tutti i campi, e riusciamo a esprimere sempre le nostre qualità o quasi sempre le nostre qualità, e oggi è stata una partita voluta vincere anche con eroismo nel finale dopo qualche errore che ho fatto io, ma credo che la squadra tutto sommato abbia meritato la vittoria, anche se per lunghi tratti la partita è stata giocata alla pari. Convocati. Shaqiri quando è entrato la partita l'ha cambiata, Lucas deve far di più, così sicuramente non è abbastanza, insomma noi sappiamo che lui può dare molto di più e speriamo che ci dia di più. Podolski sul banco degli imputati per Mancini, che però dovrebbe spiegare perché il miglior giocatore dell'Inter di questo momento, cioè il trasformatore di energia, Shaqiri rimane all'inizio seduto in panchina. Ieri abbiamo visto tanti errori, anche Montella dovrebbe spiegare al di là dei cambi bizzarri perché Salah non parte da panchina, è il miglior giocatore della Fiorentina, anche dei trasformatori di energia. Pierluigi Pardo, ti sei salvato, grande, anzi grande salvataggio in tuffo, perché patrimonialità esiste, termine economico, grazie al professor Simone Spezia che ha controllato. Ma è chiaro, siamo a top, economia e commercio alla sapienza, stiamo a pettinare grande le palle, grande qualità, economia e commercio alla sapienza, dottore, patrimonialità esiste, dottore, sì. Andrea, anche Andrea Sorrentino è dottore. Sì, io però facevo scienze politiche, andavo a economia e commercio per altre cose. Per altre, adesso, davanti all'acquario. Adesso dice qua, adesso dichiara all'Italia. Adesso dichiara all'Italia perché andava a economia e commercio. Ma è ovvio, Sorrentino. Mi fuggero perché voi siete dei malpensanti. A economia e commercio c'era la mensa universitaria e io andavo là. La senti la pernacchia? Sorrentino non magna storicamente magro, sì. Stasera tiki-taka, Sorrentino, tu se non lo... Con Ventura, con Parola. Sorrentino, chi è l'allenatore dell'anno Bucchino, secondo te? Al momento? Al momento è sicuramente Giampiero Ventura, perché... dopo aver perso Immobile e Cerci, ha rivoltato la squadra e, come fanno i grandissimi allenatori, ha tirato fuori il meglio da quello che aveva. Ha avuto quei 2-3 mesi ovviamente di rodaggio e di incertezze e di risultati che non arrivavano, ma poi piano piano ha modellato la sua squadra dal 4-4-2 o 4-2-4 lo scorso anno, ha messo questo 3-5-2, piano piano i giocatori gli sono cresciuti intorno, lui li ha aspettati, li ha guidati e li ha portati alle imprese. Si è beccato i fischi e le contestazioni. A proposito, dove sono i contestatori di Ventura? Fuori i contestatori di Ventura oggi, 800-24-0024, venite fuori. Qualcuno dice anche che gli allenatori bravi sono quelli che fanno meno danni. Pierluigi, ieri dicevo, Shaqiri in panchina, Salah che parte dalla panchina, entra e segna come tutte le volte, per me sono un mezzo mistero, sono cose difficili da capire. Posso aggiungere, anzi voglio aggiungere, Gabbiadini in panchina a Torino. Sì, no, lo aggiungo, Gabbiadini in panchina, perché è una cosa senza veramente... senza senso. Sì, io, se vuoi poi parliamo un momento del Napoli ieri, io il Napoli ieri non l'ho capito e mi sarebbe piaciuto nel post partita avere un allenatore pronto a spiegare qualcosa delle sue scelte, perché la mia idea è che il Napoli abbia fatto una partita, secondo me sbagliando, aspettando il Torino per farlo ulteriormente stancare dopo le fatiche di Bilbao. Il Napoli aveva un grande vantaggio ieri, aveva praticamente riposato in Europa League col Trabzonspor, grazie alla bella prestazione, sicuramente questo va riconosciuto, dall'andata, semplificandosi la vita, si era presa questo bel vantaggio. Ieri aveva soltanto 3 giocatori inizialmente simili a quelli del match di giovedì contro il Torino, che un po' perché può fare meno turnover, un po' perché comunque era una scelta di Ventura, invece ne aveva 7, certo. Era nettamente più stanco e ciononostante il Napoli ha aspettato, ha deciso di non giocare. Per me il Napoli è più forte del Torino in valore assoluto. Non dobbiamo più dimenticare d'ora in poi che queste sono squadre che adesso avranno degli impegni continui ogni 3 giorni, il Napoli alla Coppa Italia in settimana, il Torino, la stessa Inter, la stessa Fiorentina, insomma stanno giocando moltissime partite, quindi in questo, secondo me, e mi ricollego anche a quello che diceva Carlo, leggere certe scelte che ci sembrano un po' astruse a livello di formazione. Ho capito, ma questi qui hanno 20 anni, ragazzi. Devi andare in campo e Napoli deve aggredire la partita. Deve aggredire la partita e provare a vincere. Non è accettabile. Poi, per carità, poteva non perderla, nel senso che poi era una partita da 0-0, risolta da un episodio, poi c'è il palo di Gabbiadini, quindi è stata anche sfortunata, questo do atto. Non capisco quali siano gli episodi di cui parla Benitez, onestamente, ma non do atto comunque che potesse non perdere questa partita. È stata sfortunata da questo punto di vista, però si è cacciata nei guai e secondo me a Napoli oggi c'è la sensazione che ieri ci fosse una grande possibilità e la squadra non se l'è giocata questa possibilità. Sì, ma io poi non capisco anche perché questi giocatori, cioè ci sono dei giocatori che in un certo momento della stagione sono cruciali. Shaqiri nell'Inter, Salah nella Fiorentina, e Andrea Sorrentino ieri li ha visti entrambi, Gabbiadini nel Napoli, va bene, giochi ogni 3 giorni, hanno 22-23 anni, li tiri fuori dal campo, li metti a dormire, li tiri fuori dal letto un minuto prima di giocare, cioè, per me è un Sulla Fiorentina mi avevano garantito che ieri Montella era molto preoccupato al pensiero della partita con la Juventus a metà settimana, e quindi alcune scelte di ieri sera erano orientate anche alla semifinale contro la Juve di Coppa Italia. Per quanto riguarda l'Inter, Shaqiri aveva giocato molto male contro il Celtic e Mancini ha fatto le sue valutazioni, ovviamente tutti le abbiamo giudicate sbagliate, e lo ha messo in panchina per Kovacic, e invece poi quando Shaqiri è entrato è sembrato 10 volte più tonico di Kovacic, però infatti sono le... anche Mancini sbaglia formazione, perché qui ci sono le campagne di stampa che continuano e tutti ci vogliono continuamente rassicurare ogni giorno sul fatto che con Mancini l'Inter sta andando straordinariamente bene. Ora, io specifico, ho un ottimo rapporto con Roberto Mancini, lo considero bravissimo, nei 6 anni in cui è stato fuori dall'Italia l'ho intervistato forse 10 volte, quindi non sono sospettabile di antimancinismo, però l'Inter di Mazzarri era nona, cioè Mazzarri l'ha lasciata nona. Sì. L'Inter di Mancini è ancora nona. Sì, ma un'altra faccia, però, Andrea. Guarda, un'altra faccia. Anch'io non posso. Non posso essere accusato di antimancinismo, perché anch'io l'ho intervistato un po' di volte, e fra l'altro aggiungo un ulteriore elemento. Il fatto che Mancini consideri Andrea Sorrentino e me, penso, persone è proprio basato su questa libertà, nel senso che Mancini da questo punto di vista è veramente laico, e quindi non è che si offende se uno gli muove una critica, perché è uomo di mondo e questo gli fa onore. Detto questo, condivido perfettamente quello che dice Andrea, cioè io credo che se dovessi dirti oggi la cosa che Mancini ha portato in questi mesi, secondo me ha portato qualche giocatore buono, sicuramente ha rigenerato uno come Guarin, non ci sono dubbi, si vedono delle prospettive, secondo me l'Inter può arrivare sesta o comunque può arrivare fra le prime 6 e può conquistarsi l'Europa League, e non era scontato con Mazzarri, però i risultati sono quelli, siamo sì, però ieri ha perso con una squadra in grande condizione, Pier. Ho capito, sì, ieri ha certificato che la Fiorentina è più forte dell'Inter. Ragazzi, questo è un dato di fatto, Mancini era stato preso qualche mese fa per colmare questo gap, sì. Io ti dico che dal punto di vista di Mazzarri tu puoi dire tranquillamente, serenamente, che questa squadra qui è diversa da quella che aveva lui, cioè che la cosa migliore che ha fatto Mancini è riuscito a farsi comprare dei giocatori, cosa che a Mazzarri non sarebbe successo, e poi ha dato un po' più di serenità proprio mentale a tutti quanti, ha riempito di nuovo lo stadio e ha riportato un po' di entusiasmo intorno alla squadra, e questi sono meriti indiscussi. Il problema è che ha perso troppe partite, capito Carlo? No, ma questo è vero, 5 Andrea. Su 14 in campionato e 3 su 6 in casa, è meglio pareggiare qualcuna in più e perdere qualcuna ma in meno. Non ho dubbi, però non voglio fare avvocato difensore di Mancini perché non ce n'è bisogno, però mi sembra che la tendenza sia quella, poi arrivava da 4 risultati di fila positivi, cinque, perfetto, con il pareggio sul campo del Celtic. Ieri ha perso una gara contro una squadra che in questo momento è più forte, più avanti nella costruzione, nella crescita, è la squadra del momento. Poi adesso il capro espiatorio è tedesco e si chiama Poldo Podolski, e Kovacic a me, perdonatemi, mi sembra un amico cucciolotto, perché tutte le volte che lo chiami in causa questo stecca. È così, ha ancora 21 anni, qui da 2 anni, però è capitato in 2 anni difficilissimi all'Inter, in cui anche lui è cresciuto così in modo un po' asimmetrico, un po' zoppicante, al punto che non ne conosciamo ancora benissimo il ruolo, che non è un problema. Mi sembra un giocatore di grandissima personalità. No, però da questo punto di vista, per onestà, bisogna dire che dietro alla rinascita di Guarin, che è oggettiva, c'è il rovescio della medaglia, che è il fatto che si sia invece incupito Kovacic. Ed Hernanes è sparito. Da questo punto di vista, Kovacic e Hernanes, tutti e due, stanno faticando di più da quando c'è Mancini. Quindi, insomma, a me sembra un'equazione a somma zero. Sono d'accordo con Sorrentino. Cioè, mi sembra che l'Inter non abbia cambiato rispetto a prima. Ho visto cose molto interessanti, ma legate secondo me soprattutto a dei talenti. Shaqiri è abbagliante, Shaqiri è un grande giocatore, ha fatto benissimo Mancini a prenderlo e se lo godrà, e può essere utile. Sicuramente Mancini è un allenatore di prospettiva, sicuramente gli può essere dato più tempo di quello che veniva dato a Mazzarri, perché è complessivamente più... non voglio dire simpatico, mi direbbe Moratti, ma è più organico. E ha vinto con l'Inter, non dimentichiamocelo che non è un dettaglio, ha vinto con l'Inter e ha vinto fuori da Milano, quindi è chiaro che è un allenatore che rende i tifosi dell'Inter molto più sereni e molto più contenti. al netto di questo siamo pari. Mazzarri, Mancini, sì. X. No, X, X al momento, vedo altri segnali. Andrea Sorrentino, per finire, Inzaghi, sì. Inzaghi se ne va? Qualcuno mi scrive, il Milan è stato venduto o no? Stamattina è intervenuto spero, da... Io spero per Pippo, di cui io ricordo i personaggi straordinari, che lui se ne vada, perché veramente ha una faccia sempre più brutta, Pippo. È un allenatore, un uomo in grandissima difficoltà. Io vorrei che qualcuno lo sollevasse dall'amaro calice prima o poi, perché ha la faccia proprio di quello che... Così, è una situazione che non può più gestire. Ecco. Sul giornale di oggi c'è scritto che verrà esonerato forse questa settimana. Io, a me sembra... ma è un mese che ci sono gli ultimatum, capisci Carlo? Quando inizia questa china, è micidiale per chiunque. Insomma, ha perso il controllo della situazione, ha ammesso che qualcuno la possa controllare questa situazione milanista. Quindi, ecco, spero per lui che prima o poi lo sollevino da questi dolori. Grazie Andrea! A poi stasera, stasera, stasera. Sì, sì, certo. Non fare tardi. Chiamami, cerca di vestirti caruccio, che sennò, Ah, bella gravattella, gravattella. E non ti perdere al... Quanto piace Sorrentino, ragazzi? Quanto piace? Non si deve perdere nei pressi dell'Università Sapienza, in luoghi che io non conosco, ma tu sì, Convocati. Allora, ascoltatori scriventi, Ventura Firenze fece un catenaccio da paura, sarà a riposo per turnover, scrive Alessandro. Mu insegna, Inter de tripleter, turnover pari a zero, si allenavano giocando, Roby da Torino, e ha ragione, secondo me. Aldo ha pure ragione quando scrive, scusate, ma Shaqiri e Salah hanno fatto 6 mesi di panchina al Bayern e al Chelsea, come fanno a essere stanchi? Il futuro è adesso. Gianni Forlì. Pronto? Dica. Buongiorno. Niente, complimenti per la trasmissione, scusate se intervengo. No, scusate, siamo qua apposta. A parte il fatto dell'incazzatura di Shaqiri, che non lo metteva mai dentro, perché non so per quale motivo, perché come avete già detto voi, però non mi sembrava che la Fiorentina avesse meritato di vincere questa partita, perché hanno tirato 2 volte in porta, hanno fatto un gol, Icardi ha avuto il rigore a disposizione lì, l'ha tirato fuori, Palacio pure. Non mi sembra che l'Inter avesse demeritato tanto, ecco. A parte il fatto di Shaqiri, che avete già parlato voi, ecco. Insomma, l'Inter non mi è sembrata male. A parte il fatto che ho sempre non capisco perché debba fare 50.000 passaggi davanti al portiere per arrivare in porta. Sì, anche ieri Palacio ha avuto un problema, diciamo, con Icardi, quel pallone. Però anche a me l'Inter non è sembrata male. Fatto sta che alla fine della partita sul tabellone stava scritto 0-1 e mi pare che la Fiorentina non l'abbia rubato. Però io Mancini lo ammiro, però anche l'anno che vinse lo scudetto a Parma si mangiò tutto il vantaggio che aveva, aveva 6 punti di vantaggio. Con il derby con il Milan ci fece già rimontare subito. Però alla fine spuntò Ibra dal fango di Parma, l'Inter vinse lo scudetto. Poi i modi possono essere diversi. Anche qui, contro il risultato, Mancini vinse quello scudetto. Grazie Gianni. Davide da Milano, poi Pierluigi, sentiamo una cosina. Davide. Buongiorno. Dica. Soliti complimenti. La trasmissione. Grazie. Una cosa, non so se è già stato toccato l'argomento, però ieri ho visto l'intervista che ha fatto Benitez alla Domenica Sportiva e insomma non si è comportato in modo molto educato, soprattutto per il fatto che non ha ricordato che il gol che ha subito è nato da un errore in disimpegno di Koulibaly, da cui è poi partito. E dunque non riesco a capire Ma cosa, Davide, cosa non capisce lei? La sceneggiata napoletana? Goppano palo cuscienica, io canta che sonnata, ieri in de sceneggiata di sono re. Perché questa squadra, quando c'è da fare il salto di qualità, non riesce a farlo? Non lo so. Beh, e lei l'allenatore dovrebbe darci una risposta, li vede tutti i giorni. Sì, la risposta è non lo so. Una squadra ancora diventare immatura? Lei una volta disse la maturità non si trova al supermercato, ritiene che sia ancora una squadra immatura questa? Dobbiamo lavorare ancora. Ma lavorare cosa vuol dire? Lavorare, fare di tutto. Gabbiadini, quando è entrato, ha dato quel qualcosa di più che forse sarebbe servito nel primo tempo, o non è d'accordo? Sì, può essere. Bene, provateci voi, vi lascio Benitez. Un po' dispiace vedere che il Napoli prende Gok così, insomma, ecco, questo sì che vi fa perdere la partita. Può essere. Essere è stata la sua risposta. A questo punto Benitez domani, guardando la partita di Roma Juventus, forse un pareggio per la classifica sarebbe il risultato. Non mi interessa. Benitez è quello che comunque di arbitri non parla mai, l'aveva detto lui quel famoso giorno di Napoli Juventus, io non ne parlo, ma ci può stare. Allora Pierluigi Pardo, abbiamo Boris Sollazzo e adesso tocca a te parlare con Sollazzo. Può essere. Può essere. Ci può stare? Non lo so. Non lo so. Però fatemi capire. Provateci voi. Provateci voi. Allora, beh, provateci voi da studio. Se avete provateci no, voi. No, posso dirlo anche, posso dirlo senza mezzi termini. Tanto dillo. Al cubo quello che si diceva prima su Mancini, nel senso che io Benitez ho interi beta di interviste fatte, quindi nessuno mi potrà accusare di non essere. Ieri secondo me è una figura brutta, una figura brutta. Cioè ieri secondo me il Napoli perde perché si dice anche un po' sfiga, poteva pareggiare 0-0, ma perde. Ma per un errore, gioca, per un errore. Gioca, o meglio, non gioca una partita dove doveva spranare gli avversari o quantomeno provarci. Se sia stata una scelta di Benitez oppure una contingenza non l'abbiamo capito. Benitez comunque non esce bene dalla partita ed esce ancora peggio dal post partita. Sono d'accordo. C'è poco da dire e da discutere. C'è un'educazione, c'è un riconoscere i propri errori, c'è un atteggiamento. Cioè la stampa non è soltanto quella che ti mette la telecamera davanti se devi protestare per un calcio di rigore o per qualcosa che non va. Non è soltanto quella che ti celebra come abbiamo fatto mille volte, e Benitez è stato celebrato mille volte perché se lo merita. È un grandissimo allenatore. I mezzi di comunicazione ci sono quando le cose vanno bene e ci sono anche quando sbagli una partita. E ieri il Napoli e Benitez hanno sbagliato una partita. E non vuol dire che siano un allenatore e una squadra scarsi, tutt'altro, ma sono un allenatore ottimo e una squadra di altissimo livello. Però se le cose vanno male lo devi riconoscere. Beh, magari Sollazzo da critico cinematografico non sarà d'accordo sulla prestazione di Benitez. Ma mi sembra che se cambiano gli attori cambiano pure i giudizi, come spesso succede all'Oscar, nel senso che se lo fa Mourinho che figo lo special one, se lo fa Benitez la sceneggiata, guarda caso perché allena il Napoli. A me sembra semplicemente, no, vabbè, che dopo dai, su, Boris, a me, vabbè, però fatemi parlare, io sì, l'ho ascoltato, certo, ragazzi, certo. E anche perché io ho voglia di parlare, non la liquido con uno, ok, meno male. Meno male. Però quello che dico è che quello che a me sconvolge è che dopo, perché poi dobbiamo vederle tutte, dopo aver parlato alle due pay TV, dopo aver parlato in conferenza stampa e aver detto chiaramente in maniera laconica e sintetica, dopo aver detto guardate che sono arrabbiatissimo con la squadra e via dicendo, dopo essersi sentito dire del disonesto da uno che vigliaccamente gliel'ha detto quando era fuori collegamento, dice anche che forse c'è qualcosa dell'arbitraggio che gli dà fastidio e passa solo questo messaggio qua. Lui ieri usa la comunicazione, sono d'accordo, ma la usa per dire alla squadra mi avete lasciato senza parole, mi avete tradito nel momento più importante. E in quel modo, ne stiamo parlando tutti, come proprio come succedeva a Mourinho, riesce a fare quello che vuole, cioè riesce a farsi vedere incazzato lui, scusate ma l'ha detto lui, lui che normalmente alla comunicazione dà parecchio di cui parlare, offre sempre il fianco a domande anche non particolarmente intelligenti. Ieri doveva mandare un messaggio alla squadra, l'ha mandato, però siccome allena il Napoli è sceneggiata. Se allenava l'Inter ed era portoghese era lo stesso. Allora Mourinho, io poi chiaramente ognuno risponde per se stesso, tante volte, tante prese di posizione di Mourinho io non le ho condivise. È chiaro che il fascino e il carisma del personaggio è straordinario, così come il fascino e il carisma di Benitez è straordinario, però con una modalità di comunicazione molto diversa. Cioè Benitez No, voglio dire, no, palle in belle manette per me sono stato un errore. Io capisco che adesso mi attirerò la cosa degli interisti, ma quel messaggio lì che è stato fatto passare, secondo me è stato un messaggio potenzialmente pericoloso. Poi che abbia funzionato quell'anno, perché sicuramente ha smosso il popolo nerazzurro, lo ha chiamato alla guerra sportiva, avrà smosso la squadra, avrà funzionato, non ci sono dubbi. Ma a me le manette a tagliamento non mi sono piaciute, così come anche la prostituzione intellettuale, un discorso che ho capito abbastanza poco, se non in una logica tattica bellissima dal suo punto di vista, di creare contro di sé e dell'Inter, di compattare l'ambiente attraverso la creazione di un nemico che secondo me in quel momento lì non c'era, perché secondo me non c'è nessuna squadra in Italia che è accerchiata dalla stampa. La stampa è polifonica. La stampa è polifonica, non è che ci sta una squadra che tutto il mondo ce l'ha con lei e non ha invece amicizie, entrature, pubblico di riferimento. Non ce n'è una, non ce n'è una che ha tutti contro. Quindi... Ma ieri con tutti se la rende, perché con i giornalisti, lo dice anche in conferenza stampa. Però dai. Usa i giornalisti e mi dirai che quello è antipatico. Usa i giornalisti, l'unico con cui se la prende è uno che non fa il giornalista, anche se parla in televisione. Massimo, Massimo Mauro, che adesso vi faccio sentire subito dopo il traffico. Questo me l'ero perso. Questo te l'hai riperso, Massimo Mauro, che dice le cose dopo che Benitez è andato via e Benitez poi risponde in conferenza stampa, come sentirete subito dopo il traffico. Giorgio De Luca, che pure è napoletano e tifoso del Napoli, non si sente tradito da Benitez né offeso da questo suo comportamento, ma come Boris Sollazzo d'altra parte. Traffico. Buonasera, c'è una domanda da parte di un tifoso, Francesco Varone, che le chiede: ancora un gol da palla inattiva, da cosa dipende? Del successo dei giocatori della squadra che attacca. Tutti convocati. Siamo tutti uomini di calcio e di sport in generale, ma veramente adesso vogliamo dire che l'arbitro ha fatto qualcosa in questa partita? Cioè, onestamente, far balenare un'idea di questo tipo è un messaggio veramente disonesto. Mauro, quando sei andato via, ha detto che il tuo comportamento è stato disonesto questa sera. Penso che lui ha problemi con l'italiano, sicuro non ha voluto dire questo. Tutti che mi parlano di lui so che cosa mi dicono, e credo che io sì rispetto. Io oggi sono incazzato, sono arrabbiato e per questo parlo poco. Se lui non può fare un'altra cosa che parlare nella TV, un problema suo. Allora, io lascio la replica a Boris Sollazzo. È giustissimo, cioè uno che parla, a parte che voglio vedere Massimo Mauro farlo con altri allenatori, ma uno che parla così in assenza della persona che attacca, quello si squalifica. E mi chiedo come mai si parli di Benitez e non si parli del signor Massimo Mauro, che a Napoli ci ha anche giocato ed è stato trattato più che bene. Quello è il punto, mi sembra che ci sia una capacità di giudizio che cambia a seconda del posto in cui certe cose avvengono, a seconda del ruolo che qualcuno ricopre. La verità è che Rafa Benitez ieri fa tutto fuorché lamentarsi all'arbitro. Certo, alla quindicesima domanda lascia intendere che pure l'espulsione di Quagliarella gli andava male, ma quando dice io domani parlerò con la squadra, uno che di solito il giorno dopo dà il giorno di riposo, domani parlerò con la squadra, sono molto arrabbiato, sta dicendo che giustamente arrabbiato, nero, con gli 11, anzi 14, i 13, perché Gabbiadini ha giocato bene, i 13 giocatori che sono scesi in campo, perché hanno giocato una partita indegna e lui era arrabbiato per questo. Se vogliamo far passare un altro messaggio, no, ma però sembrava, però deve rispondere, Boris, no, sembrava Boris, che fosse arrabbiato con l'arbitro, ma assolutamente no, anche ma perché lo dica, dai. Ma è uno dai. Che lo dice, è uno che lo dice, quando si inventa ci può stare, Boris, lo fa intendere. Ma ieri sembrava, da quello che ha detto, tant'è vero che Ugolini gli chiede, si riferisce all'episodio di Quagliarella, e allora lì uno dice no, non ce l'ho con l'arbitro, ce l'ho con i miei giocatori, punto, e in due secondi chiarisci. Dai, io adesso poi, tra l'altro, chiamiamo Massimo Mauro, adesso ho mandato il numero a Giorgio De Luca, perché magari può essere anche un'occasione per lui per chiarire. Secondo me ieri l'arbitraggio è stato ottimo, l'arbitro non c'entra nulla, ci poteva stare forse il secondo giallo di Quagliarella, ma in una situazione al limite dell'area, quello scontro tra Quagliarella e Callejon sull'1-0, dove io non so se c'era fallo, è chiaro che se tu dai fallo come ha fatto l'arbitro ci poteva stare il secondo giallo. Detto questo, stiamo parlando veramente di un dettaglio, di una partita non fortunata per il Napoli, nella quale... Kerr, però lui arriva quella piccola considerazione a mezza bocca, arriva dopo aver detto abbiamo giocato un po' tempo pessimo, abbiamo fatto un errore gravissimo al 69esimo. Cioè, è chiaro che se glielo metti in bocca lui alla fine lo dice, perché magari in quel momento, 20 minuti dopo la partita, ce l'ha quella rabbia là. Probabilmente se glielo chiedessi oggi questo non succederebbe, ma dire che si è lamentato dell'arbitro e non parlare di Massimo Mauro, se parliamo di comunicazione, mi sembra un modo di fare due pesi e due misure. Io questo sto dicendo, solo questo. Boris, grazie. Ci sentiamo adesso, andiamo avanti, ci sentiamo. Ovviamente torniamo su questo argomento che trovo molto interessante dal punto di vista proprio della tecnica di comunicazione. Io dico la verità, la penso più o meno come Pierluigi, cioè spiegami, dimmi, sono arrabbiato con la mia squadra, non sono arrabbiato con il signore che ci ha diretto, abbiamo fatto degli errori, ma ci metti poco, no? Cioè, ma anche senza... perché posso dire, una delle cose che abbiamo apprezzato in questi anni, e lo dico veramente in maniera iper sincera, da parte di Benitez, è un certo atteggiamento invece tranquillo, sereno, sportivo, per cui quando poi lo vediamo come ieri sera... così, usare metodi di questo tipo. Siamo qui a parlarne perché non abbiamo capito. A me non mi è piaciuto, ma che ti devo dire? Non mi è piaciuto in campo, non mi è piaciuto fuori. Detto questo, rimane il giudizio sull'allenatore, insomma non cambia niente. Cambia per quello che è la realtà del calcio, che è liquido, lo dico così, quelli che me lo scrivono su Twitter sanno che l'ho detto pure oggi, per cui non è che cambia la carriera di Benitez, però certamente questa uscita non mi è piaciuta, insomma. Marco ancora, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, salve. Tanto complimenti per la trasmissione che mi tiene compagnia nei Grazie. Miei spostamenti. Niente, io volevo intervenire perché sono fedelissimo Granata da tempo, e anzi da sempre, e devo dire la verità che mi sto godendo il momento. Stasera tiki-taka, Ventura? Sì, assolutamente, appunto. Bravo. Prima parlavate di detrattori di Ventura e devo dire che probabilmente sarà difficile trovarne qualcuno. Ma perché adesso hanno saltato il fosso, perché ce n'erano, è vero. Io devo dire la verità, non sono mai stato, invece volevo spezzare una lancia nei confronti del presidente Cairo, che di detrattori, devo dire la verità, io lo vedo molto perifericamente la realtà Granata, perché sostanzialmente ho detto ancora, ma in realtà sono romagnolo. Mi sembra che in questi anni ha sicuramente compiuto qualche errore nella fase iniziale della gestione della società, ma devo dire che negi ultimi anni penso che con Ventura, con Petrachi, sia riuscito comunque a creare una situazione che fa sì che il Torino sia devono avere la pozione magica, perché prendono i giocatori, li rivitalizzano, poi quando escono dal Torino vedi Cersi, ma anche Immobile, non hanno più la fiaschetta di Asterix cui abbeverarsi. Tra l'altro c'è questa cosa qui delle cessioni. Io penso che veramente è cambiata molto rispetto all'inizio della stagione, chiaramente la dimensione del Torino, questo va detto. All'inizio ci potevano essere dei patemi e delle preoccupazioni, però oggi il bilancio lo si può fare. Il Torino ha venduto benissimo, i giocatori che sono partiti stanno facendo tutti male, o comunque maluccio. Cairo quindi ha fatto un grande lavoro nei mezzi che ha a disposizione per quella che è la dimensione del Torino di oggi. E qui torniamo a un discorso brutto, impopolare, difficile, poco romantico, che proprio mi duole dover fare, e cioè il Torino non ha il budget per lottare per lo scudetto. È una grandissima squadra, meravigliosa, del nostro calcio, con un passato enorme, ma finché il calcio verrà regolato dal business così come è adesso, il Torino non vincerà mai lo scudetto. Il Torino non ce la potrà fare, probabilmente neanche la Fiorentina, la Sampdoria, ed è un peccato, chiaramente, rispetto al calcio che avevamo una volta. Detto questo, il Torino secondo me sta facendo il massimo di quello che può fare. Non c'è dubbio, Piero. Da quel punto di vista, secondo me sono bravissimi sia Cairo che Ventura. Senti, ti lascio per Tichità, che per Ventura questa chicca, ma la saprai già: nessun difensore nei massimi campionati europei ha segnato quanto Glick. 6 reti. Ciao Pier, ti vedo in TV. Ciao. Tutti convocati all'800240024. Questo è il numero verde. Sandro da Napoli, poi Carlo da Milano. Buongiorno Sandro. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao, dimmi. Ciao. No, intervengo, peccato solo adesso, perché Sollazzo non c'è più, perché praticamente ha preso preciso il mio pensiero. Cioè, soprattutto riguardo la questione della sceneggiata napoletana, perché appunto Benitez è l'allenatore del Napoli, vabbè. Però al di là di questo, non volevo puntualizzare su questa cosa, ma su quello che hai detto tu dopo, cioè il fatto che magari se lui ce l'aveva con la squadra lo poteva dire direttamente. Cioè, a me manca la Sandro, a me manca la cornice. Allora, io non condivido questo, cioè il fatto che stiamo discutendo di queste cose perché Benitez è allenatore del Napoli. Aggiungo che Benitez è uno dei personaggi del calcio italiano che io preferisco. Ieri non ho condiviso semplicemente perché se voleva fare una murignata gli è venuta male, perché non si è capito dove voleva andare a parare. Ok, e su questo posso essere d'accordo, perché non gli è riuscito benissimo, insomma, anche dal punto di vista mediatico. Dillo, ce l'ho con i giocatori. E poi da lì rispondi a monosillabi. Dice: non ho voglia di parlare, ce l'ho con i miei giocatori, sono arrabbiato con i miei giocatori, abbiamo fatto schifo. Non ho voglia di parlare, se volete farmi delle domande, fatemele. Questo è il senso. Così capisco la cornice, no? Sì, certo, no, ci può stare anche questo ragionamento. Però magari così voleva troppo la squadra. Io penso che lui abbia comunque voluto mandare il messaggio facendo questa sceneggiata, come dici tu, questo mutitimutismo, e allo stesso tempo magari preservare un po' la squadra, perché magari se lo diceva in diretta sai, era un po' troppo sgamato, ecco, come ti posso dire. Ho capito, ma così non so, forse sarà riuscito a mandare un messaggio alla squadra, ma non è riuscito a mandare un messaggio a chi lo ascoltava, e nemmeno ai tifosi del Napoli, io credo, perché poi magari Sollazzo ha ragione nel dire gli hanno messo in bocca la critica all'arbitro, ma così è sembrato, cioè o ti spieghi e poi fai quello che vuoi, non rispondi, definisci il contesto, i contorni, la cornice, e poi dentro quello il quadro lo dipingi come vuoi mediaticamente, oppure non si capisce, e allora poi è legittimo tutto, no? Cioè è legittimo dire: ma ce l'aveva con l'arbitro, ma come? Napoli ha giocato male e ce l'aveva con l'arbitro che ieri è stato praticamente ininfluente. Cioè è questo il senso. Se era un'operazione di comunicazione di questo tipo, che ci può stare, che ci può stare, Benitez è un uomo di grande intelligenza, non gli è venuta bene. Io dico solo questo. L'unica cosa che non condivido è dire: no, ma adesso dite tutto questo perché è allenatore del Napoli. Questa no, questa non accetto sinceramente. Sandro, grazie. Carlo, buongiorno Genta. Senta, io sabato ero a Verona a vedere il Milan. Bello spettacolo. No, ma guarda, io sono sereno per questa ragione. Allora, in Europa non ci andiamo ed è impossibile retrocedere visto le squadre ignobili che abbiamo dietro. Però le faccio una domanda secca. Considerando che proprio sabato ho visto che sono stufi, annoiati e non han voglia, perché il concetto di base è proprio al di là della preparazione, è proprio della serie: purtroppo dobbiamo finire il campionato, ma ho altro in mente da fare. Lei cosa farebbe? Cioè, nel senso, queste 13 giornate, fosse Berlusconi, Galliani, cosa fa? Comincerei a capire chi resta e chi va via. Ecco, quindi farebbe piazza pulita di chissà che già va via. Lei cosa dice? Cioè, che facciamo? Buttiamo via? Cioè, sono professionisti, sono pagati per giocare. Ma è d'accordo con me che più che altro è cioè non c'è neanche da arrabbiarsi, è più malinconico che altro. Sì, cosa. Malinconico, però non, anche buttare via del tempo a me sembra sbagliato, perché se loro signori non hanno voglia di giocare con il Chievo, non hanno voglia di correre, non hanno voglia, non hanno motivazioni, allora la metterei sui soldi, sul rinnovo dei contratti e sul cominciare a capire se qualcuno ha voglia di capire al Milan, perché la confusione mi sembra regni sovrana, allora chi resta e chi va. Perché a questo punto della stagione mi sembra l'unica cosa da fare. Intanto stasera, e lì vorrei andare con il mio prossimo ospite, si gioca la sorella della partita scudetto, la sorella brutta della partita scudetto, che non è più. A distanza di 4 mesi, lei la ridirebbe quella frase: vinceremo lo scudetto perché siamo più forti della Juventus? Ma vedo la vostra ostinenza, non so come si dice, ossessione, ostinazione a chiedermi questa domanda. Che posso dire? Che forse c'è una divinità misteriosa che ha voluto punirmi di questo peccato, se peccato ho commesso, questo peccato di superbia. Ma se l'ho fatto a questo momento era per lottare soprattutto con un ambiente di pessimismo eccessivo. Siamo arrivati, passati 3 mesi, quando sono passati dalla partita di andata. Dopo la partita di domani ci sono ancora 13 partite e 39 punti. E quindi il campionato è ancora molto molto lungo, anche perché Napoli si sta avvicinando e domani nella partita secca sicuramente i valori si azzerano. Quindi domani è una partita molto molto importante ai fini del campionato, ma non credo che sia la partita fondamentale per il campionato. No, non lo è più. Emiliano Mondonico, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Mister, sei d'accordo? È la sorella brutta della partita scudetto. Cioè, no, è alle porte della primavera, mentre la vediamo ancora in lontananza e, come mi insegni, gli alberi sono ancora spogli. Il campionato è finito. Ah, se vince la Juventus il campionato è finito. Troppo che se ne dica, che si vuole stare nel centro di non so che cosa, però la realtà è questa. Se dovesse vincere la Juventus è chiaro che il campionato non ha più storia, bisogna lottare per il secondo posto, e anche lì penso sembra che nessuno voglia arrivare secondo per tantissimi motivi. Diciamo che il campionato diventa interessante per altre conquiste, però sì. è indubbio pensare che in questo momento la Juve non era favorita di questo campionato, perché l'ha dimostrato al 100%. Certamente, ma se come disse Totti quel giorno, la Juventus dovrebbe fare un altro campionato, l'ho detto prima, parafraso Totti, dietro alla Juventus il campionato è aperto, è divertente, non si sa chi si vuol pigliare sto secondo posto, il Napoli va avanti e poi perde una partita importante, la Lazio che è in crescita pure ha fatto la stessa cosa, la Fiorentina invece è in crescita e basta, l'Inter va sempre sulle montagne russe, le genovesi sono sempre lì dietro, tutto sommato è divertente. Ma quello che mi sto leggendo i numeri, che poi i numeri sono quelli che dovrebbero dare la verità, la Juventus è a meno 9 rispetto ai punti che aveva lo scorso anno, la Roma è a meno 12 punti di quello che aveva lo scorso anno, perciò questo campionato invece di andare avanti va indietro, era difficile superare i 100 punti. Sì. E infatti l'hanno ampiamente dimostrato. Cioè, io continuo a ritenere il campionato italiano il campionato più bello del mondo perché è il più difficile. Sì. Vedendo le gare in Coppa e vedendo le gare in campionato, cioè io penso che si capisca proprio in maniera evidente la grandissima difficoltà che c'è a livello tattico di giocare in Italia. Poi si può anche non essere d'accordo, perché è chiaro, uno dice no, non si può giocare in questa maniera, io che sono più debole vado a incontrare una squadra più forte e apro tutto quello che ho da aprire per giocarmela alla pari. Invece col cavolo, io che sono la squadra più debole vado a incontrare la squadra più forte e gli dico, amica mia, vieni, che dopo io cerco di mangiarti. Anche perché da sempre ho capito che se si affrontano a viso aperto due squadre vince sempre quella più forte. No, ma non esiste che vinca l'altra. E noi abbiamo questa logica che ha permesso alla Juventus di battere il Borussia, alla Fiorentina di battere il Tottenham, al Torino di vincere a Bilbao. Ma questa è la grande saggezza tattica dei nostri allenatori. Poi dopo ognuno la pensi come vuole. Noi abbiamo vinto quando abbiamo messo la tattica al centro del paese, chissà che cosa. No, questo è un discorso molto da allenatore, se me lo consenti. Ma ci mancherebbe altro, almeno quello. È essenzialmente da allenatore. Poi gli esteti non saranno d'accordo perché si divertono di più a vedere altri spettacoli, però io sono d'accordo con te perché è un discorso eminentemente tattico. Ma dimmi un'altra cosa da allenatore. Gli esteti sono quelli che dopo dicono l'importante è partecipare. E chi sono? Ai nostri giovani l'importante è partecipare, tua sorella l'importante è partecipare, perché nella vita del giorno d'oggi se non ti tiri sulle maniche tutti i giorni e ti hai da fare, Col cavolo che partecipi. Bravo. Ma vogliamo spiegargli ai nostri giovani, al nostro futuro, che se non si fa fatica, se non ti fai un mazzo così, la vita non ti dà niente? Vogliamo spiegare ai nostri giovani che non è che trovi sempre quelle che ti regalano il telefonino, il motorino, tutto quello, certo, che vuoi, senza che tu faccia fatica? Vogliamo pensare noi adulti che i nostri padri ci hanno lasciato un mondo migliore e noi non siamo sicuri se ai nostri figli lasciamo un mondo migliore? Punto, dimmi. Grande. Senti, no, dimmi una cosa invece, sempre da allenatore, ma perché, perché allora Montella lascia fuori il suo miglior giocatore e poi lo mette presto perché gli è andata bene? Sarà. Mancini lascia in panchina il suo miglior giocatore Shaqiri, Benitez lascia in panchina il giocatore più in forma di Napoli in questo momento, Gabbiadini. Ma cioè, questi ragazzi che hanno 22-23 anni, in un momento in cui sono cruciali per le loro squadre, possono fare il piacere di giocare tre partite in fila alla settimana? Magari poi sì, stanno a letto tutto il giorno, Ma perché? Ma perché non pensiamo che ci sono dei momenti culosi? Culosi vuol dire che è uno, basta che apra la bocca e fa gol. Sì, in questo, esatto, momento tu hai parlato di tre giocatori che come sfiorano la palla, certo, fa gol. Sala è entrato ieri nella Fiorentina, io ti dirò che mi aspettavo Gilardino. Però giustamente io faccio l'opinionista e Montella fa l'allenatore. È entrato Sala e ha fatto gol, altri sono entrati e fanno la differenza. C'è questo benedetto maledetto turnover che chiaramente ti obbliga, tra virgolette, a far giocare tutti quanti, dimenticando che chi gioca nella partita che conta meno delle altre si sente riserva prima ancora di entrare e sicuramente non rende al 100%. Però è chiaro che tutti devono avere le possibilità, tutti devono far vedere quello che sanno fare, ma li vedi tutta settimana. Ti occorre la partita della domenica per renderti conto se vile buono mingalun, cioè, capisci? Ma durante la settimana che cosa fai? Cavolo, io durante la settimana l'ho lì a 3 metri e questo qui non ne prende una neanche per caso, perché devo farlo giocare, devo per dare il turno, la possibilità domenica di giocare per farmi capire se è buono minga buono, ma scoprilo durante la settimana e la domenica mando in campo quei buoni. E certo, anche se fanno un po' di fatica, alla fine, come diceva qualcuno prima, Salah si è fatto 6 mesi di panchina al Chelsea, Shaqiri 6 mesi di panchina al Liverpool, sono giovani, forti, allenati, potranno anche fare piacere di giocare, no? No, lasciamo perdere la fatica, lasciamo perdere giocare, lasciamo ogni perdere, 3 giorni, lasciamo perdere, perché no? Se no, perché lasciamo, se no andiamo via di testa, capisci? Andiamo via di testa, perché se uno non può fare 3 partite in una settimana, allora non abbiamo capito niente per quanto riguarda il recupero fisico. E credimi, sono più idiozie che non realtà. Alle volte il turnover così serve affinché nessuno abbia qualcosa da dire. L'ho fatto giocare, te l'hai mai ciapato, e perciò è chiaro che se c'è una partita importante c'ho anche il diritto di lasciarti fuori senza spiegarti. Sì, sì. Punto a capo. Però fossi qui ti abbraccerei, guarda. No, perché non posso farlo, perché finalmente no, un allenatore che dice queste cose. Allora non raccontiamoci le favole, possono giocare in certi momenti della stagione, si fa fatica tutti quanti, 3 partite in una settimana, il resto. Ti dico un'altra situazione, i nostri giovani. Non si può allenarsi una volta alla settimana. Non c'è più l'oratorio dove andavi a giocare dal mattino alla sera e chiaramente ti allenavi, sì, nascevi campione e lo diventavi perché ti giocavi tutto il giorno e perciò tutti i giorni miglioravi il tuo già essere campione. Adesso no, adesso incominci ad andare alla scuola calcio 2 volte alla settimana, 2 ore alla settimana. Dimmi chi diventa un campione allenandosi 2 ore alla settimana. Ci rendiamo conto che bisogna allenarsi tutti i giorni, 2 volte al giorno, certo, per arrivare a giocare in Serie A? Cioè, ci rendiamo conto che su 40.000 ragazzi che incominciano a giocare a calcio, uno arriva a giocare in Serie A e noi dobbiamo preoccuparci degli altri 39.999 che non arriveranno mai? E diamo la possibilità, facendo i college. Sì, le squadre di Serie A facciano i college, facciano facciano i centri con questa scuola che permette di allenarsi due volte al giorno, di fare il tuo, a livello professionale, a livello di studio, il tuo percorso, di sapere quello che mangi, ma soprattutto di recuperare. Certo. Questo se vogliamo che ricompaiono i campioni. Se no tutto il resto è fuffa. Secondo me i campioni nascono ancora, ma non li facciamo diventare. Perché ormai per un allenamento al giorno, poi a scuola, no, venerdì non vai perché devi andare in trasferta, vai due volte alla settimana. Cioè non diventi né giocatore e neanche uomo. No, poi pretendi di avere il posto perché ti arrabbi, perché poi dici ci sono troppi stranieri nei nostri settori giovanili, insomma c'è la meritocrazia. Se questi signori che arrivano da non so dove, corrono più di noi, valgono più di noi, giocano loro. Ma chiaro. Noi non dobbiamo lamentarci perché ci portano via il posto, ma dobbiamo darci da fare per cercare di essere competitivi anche noi. Certo. E invece certo. No, invece vogliamo avere il posto garantito, mettiamo le regole, i nostri bambini non ce li tocca nessuno. Cioè, che per far giocare i giovani, adesso non si deve più essere più bravo degli altri. No, per far giocare i giovani bisogna fare le regole che in una partita, in un campionato, devono giocare quattro che sono sotto i 22 anni. Certo. Regole per far giocare i giovani. Ma i giovani bisogna farli giocare perché sono più bravi degli altri. Capisci che se durante i 90 minuti il primo che gli vengono i crampi è un ragazzo di 20 anni... C'è un problema. Non ci capiamo più. Esattamente. Emiliano, ti ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie. Ti abbraccio a voi, via etere. E buona giornata. Noi siamo sempre qua. Grazie, Emiliano Mondoni. Ciao. Michele, Roma, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Grazie di avermi convocato. Grazie a te. Dimmi. Io sono un tifoso del Napoli e vorrei commentare, diciamo, il mugugnato di ieri di Benitez. E diciamo che quella è una notizia non notizia, Perché? Perché vi spiego, perché se avete sentito le interviste di Benitez degli ultimi due anni, diciamo che non risponde mai a una domanda. Non è mai preciso nel rispondere alla domanda, non ha mai detto una problematica della squadra, ma soprattutto non c'ha buon feeling con la stampa italiana. Ma non lo so, non sono così d'accordo, anzi Benitez è un interlocutore che ha delle cose da dire, e ripeto, a me è un allenatore e un personaggio che piace molto. Quella atteggiamento di ieri, non, secondo me, gli è venuto male, io non l'ho capito e mi limito semplicemente a dire questo. Mi rifiuto di pensare che venga stigmatizzato perché allena il Napoli, perché questo è veramente offensivo, io credo, per Benitez e anche per i napoletani stessi. Soltanto questo. Stefano, Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì. Io praticamente ho criticato Ventura in alcune partite, ma per il semplice motivo che lui aveva un'ossessione, almeno a me sembrava che aveva un'ossessione per i passaggi verso il portiere e il ritorno della palla indietro. Adesso vedo che è un po' cambiato, vedo che gioca più sui laterali che spingono molto e ha meno propensione ai ripassaggi indietro, adesso è più propenso all'attacco. Ma Stefano, non è che perché la condizione fisica dei suoi giocatori è cresciuta e perché la squadra è cresciuta grazie anche al lavoro che faceva prima, quando magari faceva delle cose diverse o i suoi erano portati a fare cose diverse. Possiamo vedere anche questo come il prodotto di quel lavoro che ha fatto prima, come i frutti che stavano nascendo su quell'albero. Quindi adesso il Torino è una squadra che è in condizione fisica strepitosa, è la classica squadra che nessuno in questo momento vuole affrontare in Italia o in Europa, ed è la squadra prima in classifica del 2015, punti 19, ultima sconfitta novembre 30, giusto? Correggimi se sbaglio, Giorgio De Luca, da quel gol all'ultimo respiro di Andrea Pirlo. Dunque poi i conti fate di voi. Silvano Cremona, buongiorno. Un minuto. Pronto, buongiorno. Dica. Detto questo, cioè dopo Mondonico mi viene un po' dura intervenire perché mi sembrava dovremmo portarlo nelle scuole Mondonico, insegnare educazione civica. Volevo dire, io se vedo una situazione per cui sono arrabbiato, mettendomi nei panni di Benitez, piuttosto sto in silenzio stampa. Ma il silenzio stampa è sempre perdente, però... Sì, lo so, è perdente, però farlo così vuol dire, cioè, è una sconfitta a cappotto proprio. Sì, cioè, più che altro non è passato il messaggio, cioè magari è passato alla squadra, ma sì, nessuno, nessuno ha capito esattamente dove volesse andare a parare. Sì, perché sembra quasi una critica nei confronti dei giornalisti dopo. Cioè, o sì, o dell'arbitro, o di non so chi, però, ripeto, vuoi fare comunque... qualcosa anche di eclatante, ci può anche stare come, come atteggiamento, però almeno mi definisci la cornice, sono arrabbiato con questo, questo e quest'altro, da, se volete farmi le domande sappiate che non ci voglio di parlare, e poi si può capire tutto. Ci ritroviamo domani, dopo Roma-Juventus, ex partita Scudetto, Filippo Aureggi in regia, Giorgio De Luca il nostro autore, Daniele Bonamici in redazione, ciao. Ma perché Gabbiadini in panchina, che ci è sembrato l'uomo quando poi è entrato che ha avuto un po' più di qualità rispetto agli altri? Perché giocava Marica.